tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate. Un cadavere domina la società, è il cadavere del lavoro. È l'incipit del Manifesto contro il lavoro, realizzato dal gruppo Crisis, nato attorno all'omonima rivista tedesca che proponeva una rilettura originale dell'opera di Marx. Nella società del lavoro, il lavoro sta diventando raro, come l'aria respirabile delle città, eppure si esige da tutti di lavorare, se vogliono vivere, pena finire nelle discariche sociali. Senza ricorrere alle tesi estreme di Kurz e soci, è evidente come il limite oggettivo del lavoro è stato rovesciato come limite soggettivo, come fallimento personale che non merita nemmeno un aiuto dello Stato. Guardiamo all'Italia e al suo più straordinario inapplicato atto normativo. La Costituzione, quella Repubblica fondata sul lavoro, fa a pugni con una realtà dove non solo, soprattutto nei territori del Mezzogiorno, è sempre complicato trovare un lavoro, ma lo stesso è diventato strutturalmente precario. Una precarietà che si riflette sulle esistenze, soprattutto per i più giovani, con rapporti intermittenti, formule contrattuali più fantasiose e salari sempre più di merda. Che di esistenza dignitosa e possibilità di emancipazione che il lavoro avrebbe dovuto garantire non c'è più nemmeno l'ombra. E questi sono i fortunati. Molto peggio va a quei 1000+ lavoratori e lavoratrici che ogni anno nel nostro paese, in una sorta di moderno omaggio al dio pagano, quello del profitto, sono sacrificati nelle catene di produzione, spesso per responsabilità diretta dei padroni. Perdono la vita per macchine tessile manomesse o per costruzioni alzate troppo in fretta, nei cantieri degli infiniti subappalti a cascata. Il lavoro così non è un valore. Denunciano alcuni sociologi mainstream e sindacalisti risvegliatisi da un lungo letargo nella stagione in cui le perverse teorie neoliberiste hanno definitivamente plasmato questa specie di libero mercato dove gli aiuti copiosi alle imprese sono, dirottati a speculazioni finanziarie, politiche di sviluppo e il sostegno ai senza reddito o ai reddito bassi bollato come assistenzialismo. Eppure, saremo noi ottocenteschi, ma basterebbe leggere l'inizio del Capitale di Marx, dove si dice che dominano le merci e che il valore proviene dal loro scambio, per avere un'idea di cosa stiamo parlando quando pronunciamo le parole capitale, sfruttamento o lavoro alienato. E per capire, senza tanti giri, che secondo Marx l'avanzata del capitalismo corrispondeva a un arretramento del valore del lavoro, dato che l'unica realtà che conta è il salario, quel denaro che ci dà accesso al mondo delle merci, diventato il nostro unico mondo. Quello che non è cambiato, oggi come ieri, è che nelle contrapposizioni capitale-lavoro occorre non lasciare, come sta accadendo, che i padroni siano i soli a condurre la loro lotta di classe. Spetta a noi, alle soggettività organizzate in lotta, provare a invertire i rapporti di forza, senza contare poi tanto su appoggi esterni, ma riconoscendosi in questa condizione di marginalità e fragilità, provando a riprendere in mano un conflitto. E questi spunti di riflessione, insieme ad altri, che sono al centro di questo speciale nel corso del quale ascolterete le interviste a Antonio Loffredo, docente di diritto del lavoro, a Simone Fana, esperto di politiche del lavoro e scrittore, a Francesca Maffei, ricercatrice di diritto del lavoro, e per ultimo ad Anthony Cartwright, scrittore inglese, autore di libri come Heartland, Iron Town, Il Taglio, e il suo ultimo libro è Come ho ucciso Margaret Thatcher. Ringraziamo le nostre e i nostri ospiti e buon ascolto a tutte e a tutti. Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore, siete all'ascolto di Ponte Radio, progetto di comunicazione, informazione e approfondimento costruito in parallelo con quattro realtà radiofoniche auto-organizzate: Radio Onda Rossa, Radio Wombat Firenze e Radio Eustachio Verona. Con me c'è Marco, che saluto. Ciao Marco. Buongiorno a tutte e a tutti. Nella trasmissione di oggi, come quella dei venerdì precedenti di maggio, ci occuperemo di lavoro. E in questa prima parte dello speciale abbiamo come ospite Antonio Loffredo, docente di diritto del lavoro all'Università di Siena, autore di numerosi saggi in materia di diritto del lavoro in materia di diritto del lavoro e diritto sindacale, ha svolto diverse attività di ricerca sempre sul mondo del lavoro. Ciao Antonio. Ciao a tutte e a tutti. Ciao Salvatore, ciao Marco. Partiamo con una prima domanda, perché tanti paesi occidentali governati dalla destra e dalla sinistra hanno già il salario minimo. Perché da noi la discussione assume i toni della contrapposizione ideologica? Anzi, si impedisce finanche al Parlamento di discuterne. Dunque, iniziamo con una domanda su un tema che ci sta occupando molto ultimamente, perché io insieme ad altri colleghi dell'Università di Siena e altre tre università, Bari, Modena e Catania, stiamo facendo da 3 anni, ora stiamo portando alla conclusione un progetto di ricerca proprio sul salario minimo. Quindi è un tema che abbiamo ben presente, che è piuttosto complesso da spiegare in Italia perché siamo in questa situazione, perché molto, diciamo, una testa normale porterebbe a pensare che una norma sul salario minimo è una norma, come dire, di civiltà, no, perché garantisce che nel mercato del lavoro non si possa lavorare al di sotto di un determinato prezzo. Chiariamo una cosa, una legge sul salario minimo non è che risolverebbe i problemi del mondo del lavoro italiano, perché il mondo del lavoro italiano ha una questione salariale gravissima che ci portiamo avanti da quasi 30 anni e che non riguarda solamente i salari più bassi, perché è una questione che riguarda moltissimi lavoratrici e lavoratori, tutti i dati anche dell'OCSE, cioè di organismi internazionali, anche dell'OIL, hanno dimostrato senza alcuna possibilità di smentita che l'Italia è agli ultimi posti nella crescita salariale negli ultimi 20-30 anni. Quindi c'è una questione salariale complessiva. In più noi abbiamo un problema, come dire, di ordine anche normativo, perché noi per tantissimi anni, appunto fino alla metà degli anni 90, come dire, non abbiamo avuto bisogno di una legge sul salario minimo, perché le organizzazioni sindacali italiane avevano una capacità negoziale decisamente più forte di moltissime altre organizzazioni sindacali di altri paesi, e quindi riuscivano a garantire dei livelli medi di salari piuttosto elevati. Da quando c'è questa crisi di rappresentatività sindacale, anche molto, diciamo, per molti versi, diciamo, spinta anche dalle norme di legge, perché poi le norme di legge hanno creato problemi particolari anche alle organizzazioni sindacali, da quando c'è questa crisi di rappresentatività, dicevo, ovviamente i contratti collettivi non riescono a garantire dei salari dignitosi come una volta, e in più c'è il problema tutto italiano, che i nostri contratti collettivi non sono efficaci erga omnes, cioè non si applicano a tutte le lavoratrici e lavoratori. Se io firmo il contratto collettivo nel settore metalmeccanici, non per forza si applica a tutte le metalmeccaniche e metalmeccanici d'Italia, ma solamente a quelli delle imprese nelle quali si applica quel contratto collettivo. Quindi se il datore di lavoro sceglie di applicarlo perché è iscritto a Federmeccanica, per intenderci, lo applica, altrimenti niente. Questo è un problema serio, perché siccome negli ultimi 15 anni in Italia c'è stata una proliferazione dei cosiddetti contratti pirata, contratti firmati da sindacati, che dire poco rappresentativi e fare un complimento, ha frammentato la contrattazione collettiva. Di fatto moltissimi lavoratori e lavoratrici si trovano, quando va bene, si vedono applicare un contratto collettivo firmato a soggetti poco rappresentativi, quindi con tutele molto più basse anche in materia di salario. E quindi, per chiudere, questo è il problema della legge sul salario minimo in Italia, che noi ci troviamo in una situazione salariale estremamente grave, aumentata da queste particolarità e dal fatto che c'è un'enorme precarietà nel mondo del lavoro, enorme. La precarietà che cosa comporta, tra le altre cose? Contratti anche di lavoro con stipendi molto bassi, molto bassi. E quindi se qualche decennio fa forse non c'era tanto bisogno di una legge sul salario minimo, oggi è essenziale. In Italia c'è questa spaccatura molto forte. Da un lato, diciamo, voi sapete, insomma, le opposizioni hanno presentato questi disegni di legge, in parte anche condivisibili per certi versi, anche se vi devo dire la verità, a me anche questa famosa soglia di 9 euro mi sembra una soglia estremamente bassa. 9 euro lordi, se noi poi sommiamo al mese cosa significa, in molte parti del paese non ci si vive. Però detto questo, diciamo, da un lato ci sono questi disegni di legge dell'opposizione, dall'altro un governo che ovviamente non ha nessun interesse visto che è chiarissimo che ha un approccio, come dire, estremamente pro imprenditori, soprattutto un determinato tipo di imprenditori, e quindi non ha nessun interesse a approvare una norma sul salario minimo. Un'ultima cosa, per non farla troppo lunga, esiste anche una direttiva dell'Unione Europea che in qualche modo ci impone di dover garantire dei salari minimi adeguati, una direttiva del 2022. Questa direttiva noi, secondo il nostro governo attuale, non lo dobbiamo applicare perché avremmo una copertura della contrattazione collettiva altissima. Questo, diciamo, a mio modo di vedere è assolutamente diciamo inesatto, l'ho scritto anche recentemente, perché si basano tutto sui dati che noi riceviamo dall'INPS, che in realtà parlano delle contribuzioni previdenziali, non dei contratti collettivi applicati. Quindi quando tu facevi riferimento, Salvatore, a questo fatto che in Parlamento non ci si arriva neanche a parlarne, credo che sia legato al fatto che c'è questa posizione del CNEL nella quale si dice che noi abbiamo questa copertura contrattuale così elevata e quindi non avremmo bisogno di un salario minimo. Personalmente mi sembra un errore proprio giuridico, al di là che politico, però se volete su questo ci torniamo, perché vi potrei annoiare per molto tempo su questo tema. E senti, ti volevo chiedere questo. Una delle critiche che viene fatta alla possibile introduzione di un salario minimo è che si abbassino i salari, cioè che tutto questo sia una scivola verso un abbassamento dei salari, contratti. Ovviamente queste sono le obiezioni proposte, come dicevi te, dagli esponenti di governo. È vero o non è vero? Cioè, nel senso, facendo un esempio con altri posti dove evidentemente c'è questo salario minimo, qual è il risultato? È vero o non è vero? È una ipotesi pompata? Per usare un termine un po'. Allora, se la vuoi sapere, questa critica arriva anche da sinistra, non arriva solamente dal governo. È una critica di parte della sinistra che ritiene che una norma di legge rischierebbe di ingessare la contrattazione collettiva. Ovviamente non esiste la risposta, cioè qua non siamo di fronte, non esiste una risposta assoluta. Le cose che dicevi sugli altri paesi dimostrerebbero che non è detto che vada così. Due esempi per tutti, Spagna e Germania. Due paesi dal punto di vista economico molto diversi, quindi con una struttura molto forte, quella tedesca, più fragile quella spagnola, assomiglia più alla nostra per alcuni versi, e in entrambi i paesi c'è una legge sul salario minimo. I sindacati tedeschi sostengono che quella legge li ha aiutati, i sindacati spagnoli sostengono lo stesso, però i sindacati spagnoli ce l'hanno da sempre una legge sul salario minimo, da subito dopo il franchismo, anzi anche durante il franchismo. Però subito dopo il franchismo, diciamo, c'è sempre stata una legge sul salario minimo, come dire, c'è una sorta di abitudine a questo modo di negoziare partendo da una piattaforma, da una piattaforma legale. In Germania no, perché è una cosa relativamente recente, meno di 10 anni fa. Perché è significativa l'esperienza tedesca? Perché pur, ripeto, una struttura economica molto più forte della nostra, c'è stato, lo sapete bene, no? Una forte precarietà, della, diciamo una notevole precarizzazione dei rapporti di lavoro in Germania, e gli stessi sindacati hanno detto che ne avevano bisogno perché non riuscivano a tutelare un pezzo del mercato del lavoro. I salari in Germania non sono diminuiti, diciamo, questo è abbastanza pacifico. Io voglio dire una cosa per essere chiaro su questo: io non credo che le leggi, lo so che da professore di diritto non dovrei parlare così, ma le leggi non credo che riescano a migliorare moltissimo o peggiorare moltissimo le cose, molto dipende dalle dinamiche economiche e sindacali che ci sono. Voglio dire, se noi mettiamo una legge 9 euro che garantisce 9 euro minimo per tutti e le nostre organizzazioni sindacali sono debolissime, ora non sono debolissime ma non sono neanche forti come una volta, se sono debolissime non riescono a negoziare, ma con o senza la legge sui 9 euro o i 10, io direi almeno 12, questa è la mia posizione, perché esiste già, diciamo, per i lavoretti, no? Per i cosiddetti voucher, voi dovreste sapere che, che il minimo previsto, il minimo legale sono 12 euro lordi. Quindi non capisco perché per i lavoretti dovrebbero essere previsti 12 euro, invece i lavori, tra virgolette, normali, no. Comunque, in Spagna, diciamo, i salari non sono certamente diminuiti, grazie alla norma sul salario minimo. Però quello che va detto è che anche una legge sul salario minimo non è detto che poi sia, puoi dire, una soluzione neanche per i livelli bassi di retribuzione. Vi faccio l'esempio spagnolo. In Spagna, fin quando ha governato il Partito Popolare, il salario minimo era fermo a 600, non mi ricordo, 630, 640 euro, una cosa del genere, mensili. Da quando c'è questo governo PSOE Sumar, siamo a più di 1000 euro, quasi 1100 mi sembra euro al mese. Questo che cosa dimostra? Che poi vanno rinnovate, no? Cioè va adeguata all'inflazione. Se c'è un governo che non è pro labor, chiamiamolo così, anche la legge sul salario minimo non risolve neanche la questione dei redditi bassi. Se c'è un governo che si preoccupa di più, no? Anche di garantire, perché stiamo parlando, io questo vorrei sottolineare, di retribuzioni molto molto basse, molto molto basse, cioè stiamo parlando non della questione salariale di tutto il mercato del lavoro, ma solo delle retribuzioni più basse. Non preoccuparsi, ecco, io questo lo trovo grave, non preoccuparsi della sussistenza, perché non stiamo parlando dell'esistenza libera e dignitosa di cui parla l'articolo 36 della Costituzione. Stiamo parlando della sussistenza, non preoccuparsi della sussistenza delle famiglie, delle persone di un paese, mi sembra gravissimo per questo. Però, ripeto, non credo che questo sarebbe per forza la soluzione. In un momento di fragilità, anche sindacale come la nostra, voglio dire, non lo dico io, lo dice la CGIL. La CGIL, che è il sindacato maggiormente rappresentativo, dice: noi abbiamo bisogno di una legge sul salario minimo perché in alcuni settori non riusciamo a garantire dei contratti collettivi dignitosi. Quindi abbiamo bisogno di una cosa. Se lo dicono loro, io penso che ci si dovrebbe fidare, no? Chiaro. Antonio, senti, in Italia c'è sicuramente un problema, come abbiamo visto, di salari bassi, però di fronte a un mercato del lavoro che è sempre più precario, dove è forte l'intermittenza lavorativa e il ricorso ai part-time, ma non solo al part-time, basta solo il tema del salario minimo per contrastare la povertà lavorativa? No, ovviamente non basta. Ovviamente non basta. Peraltro io credo che la legge sul salario minimo, senza una norma diciamo collegata come quella che poteva essere il reddito di cittadinanza, una cosa simile, non dico che il reddito di cittadinanza fosse, diciamo, la norma perfetta, però era una misura che, pur se io avevo molti dubbi quando è stata approvata, è stata una misura che io credo abbia per molte persone sorpreso il fatto che le persone non sono più disponibili a lavorare al di sotto di una determinata cifra, se sanno che comunque loro hanno diritto a un minimo di sussistenza che dovrebbero garantire, glielo deve garantire lo Stato. Quindi le due cose vanno ovviamente insieme per quanto mi riguarda, stiamo parlando sempre di salari più bassi. La questione dei cosiddetti working poors, come li chiamano in Europa, è un problema più strutturale, che non riguarda solo l'Italia. Cioè, voglio dire, il pilastro europeo dei diritti sociali, che è una delle misure, no, messe in campo dalla Commissione von der Leyen, si preoccupa dei working poor perché i lavoratori poveri, questo lo dico io, non lo dice la Commissione, ovviamente, sono un ossimoro, cioè un lavoratore povero, sono due parole che non potrebbero mai stare insieme, perché se io lavoro ho diritto a una retribuzione, come dice l'articolo 36 della Costituzione, lo ripeto sempre perché è la poesia più bella che c'è nel diritto, deve garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ovviamente questo, diciamo, non può essere garantito solamente da una norma di legge, lo ripeto, e per poter affrontare la questione salariale in maniera complessiva c'è bisogno di una politica industriale, un'idea di quello che deve fare il paese. Ma qui il diritto del lavoro non c'entra, permettetemi. Al diritto del lavoro gli buttano addosso una croce troppo grande da troppo tempo. Il diritto del lavoro deve garantire le tutele alle persone che lavorano. Stop. Cioè questo è. E ovviamente affrontare, come dire, nella maniera più equilibrata possibile il conflitto tra capitale e lavoro. Ma detto questo, cioè, l'economia è quella che poi permette di garantire una situazione salariale dignitosa per tutti. Quindi un progetto di politica industriale, sapere in quali settori bisogna investire, in quali no, smetterla di far diventare questo paese una sorta di esercito di riserva per le multinazionali per avere mano d'opera a prezzi bassi. Questo è, diciamo, negli ultimi, voglio tenermi basso, 10 anni è stata la politica industriale del nostro paese, una riduzione delle tutele e dei salari talmente forte che le imprese multinazionali vengono da noi perché conveniamo. Ma se noi vogliamo fare, come dire, concorrenza agli altri paesi del mondo abbassando i salari, abbiamo perso, perché noi non abbiamo speranze di arrivare ai salari indiani o cinesi, quindi abbiamo perso. Cioè non si può fare lì la concorrenza. La concorrenza si deve fare sulla qualità e su altri aspetti, no? Sulla progettualità. Ma ripeto, personalmente non credo che le norme diritto del lavoro possano garantire, se non appunto, ecco, se forse una norma che secondo me dovrebbe essere approvata è quella che garantisce l'efficacia dei contratti collettivi, perché se noi, efficacia generalizzata, perché se noi avessimo una legge, lo dice la Costituzione, articolo 39, che però non è mai stato attuato, ovviamente, se avessimo una legge che ci dicesse che i sindacati più rappresentativi, misurati, nel senso persone che vanno a votare o iscritti, sanno qual è il sindacato maggiormente rappresentativo e quel sindacato a quel punto può stipulare contratti collettivi efficaci erga omnes, questo cambierebbe abbastanza la situazione, almeno sul piano contrattuale nel nostro paese, perché permetterebbe alle organizzazioni sindacali di negoziare con una maggiore forza, sapendo che se il loro contratto a quel punto si applica a tutto il settore, come avviene in Spagna o in altri paesi dell'Unione Europea. Noi invece pure su questo siamo una peculiarità, diciamo, in Europa, e questo è, ripeto, in una situazione di fragilità sindacale come quella che viviamo, è grave. Negli anni 70, 80, questo 60, non era grave perché i sindacati ce la facevano da soli, non avevano bisogno della legge. Senti Antonio, invece per quel che riguarda questa situazione attuale dei subappalti, perché poi anche questo sicuramente incide tanto, no? Le aziende più grandi mandano le commesse, fanno i subappalti e i subappalti creano ulteriore frazionamento. Come ci si può opporre a questa situazione? Nel senso, quando poi parliamo anche di salari, e poi leggiamo ovviamente poi con conseguenze gravi, perché poi le morti sul lavoro ci sono anche e soprattutto in quei settori che subappaltano pesantemente, quindi poi si parla sempre di subappalto, ma si dovrebbe anche venire a conoscere un pochino qual è la realtà di questo, che cosa significa realmente un subappalto. Allora, quelle persone, queste persone che lavorano in questi settori in cui tutto viene subappaltato, come sono garantite? Che potere hanno, ecco, rispetto a questa situazione attuale? Loro in che modo potrebbero essere anche un po' salvati, sempre parlando di salario minimo, sempre parlando di strumenti comunque mi verrebbe da dire di solidarietà, però insomma è una parola un po' forte forse. No, però la parola è giusta, hai toccato il cuore del problema del diritto del lavoro italiano, secondo me. Allora, il diritto del lavoro italiano è andato in un determinato modo fino a un certo punto. Poi nel 2003 c'è stata una norma che, diciamo, viene ricordata come legge Biagi. A me non piace ricordarla così, perché il povero Marco Biagi era stato già ammazzato, e quindi dare il nome ad una legge di una persona che non c'era più, per quanto ovviamente fosse stato in parte l'ideatore di quella norma, mi è sempre sembrato di cattivo gusto. Però detto questo, quella norma nel 2003 che ha trasformato il nostro diritto del lavoro ha fatto una cosa estremamente grave, cioè ha eliminato, anzi ha abrogato completamente la legge 1369 del 60, che quando io studiavo diritto del lavoro pensavo che fosse l'unica legge nella quale, cioè dalla quale non si poteva prescindere, perché diciamo, il diritto del lavoro, il rapporto di lavoro è composto da due soggetti, no? Da un lato lavoratrice o lavoratore, dall'altro l'imprenditore. Lavoratrice e lavoratore vengono individuati dall'articolo 2094 del Codice Civile. Ci dice chi è il lavoratore subordinato. Benissimo. E quello sta lì dal 42. Dall'altra parte, chi è il datore di lavoro? Ce lo diceva la legge 1369 del 60, perché quella legge ci diceva che per poter essere considerato imprenditore ai fini del diritto del lavoro bisognava avere determinate caratteristiche, soprattutto, no, quella di agire, diciamo, a proprio rischio, quindi come fa l'imprenditore, dovrebbe agire a proprio rischio e con una determinata organizzazione di mezzi. Quella legge è stata spazzata via nel 2003 ed è stata spazzata via insieme al principio di parità di trattamento che essa conteneva tra lavoratori in appalto e subappalto e i lavoratori dell'impresa committente. Per intenderci, fino a quell'anno in Italia, se qualcuno veniva a lavorare nella mia impresa, gli dovevo applicare le stesse condizioni economiche e normative che applicavo ai miei lavoratori. Per questo motivo gli appalti si facevano solamente quando ce n'era bisogno, cioè se io avevo bisogno di un'impresa che facesse un pezzo della produzione che nella mia impresa non c'era, allora io facevo un appalto. Invece dal 2003 è stato estremamente semplificata la possibilità di fare appalti e subappalti, e quello è stato il punto di svolta del nostro diritto del lavoro, perché da quel momento c'è stata una frammentazione delle organizzazioni imprenditoriale enorme, dell'organizzazione dell'impresa intendo, non dell'associazione, di come si organizza l'impresa. C'è stata una frammentazione per cui le imprese sono diventate più piccole da un lato, ma dall'altro la cosa veramente grave è che si sono proprio moltiplicate il numero di piccolissime imprese che in appalto e subappalto eseguono realmente, no, l'opera. E noi l'abbiamo visto, ma lo vediamo tutti i giorni, facevi riferimento, no, al tema di come si possono tutelare queste persone. E si tutelano veramente male nel nostro paese. Si tutelano male perché è difficile. Le norme sono state pensate proprio per evitare che questi lavoratori possano ricevere le stesse condizioni che hanno gli altri. Perché ci sono sempre queste, no? Si parla dell'emergenza sicurezza, ma che emergenza? Noi siamo in una situazione in cui la sicurezza sul lavoro è una barzelletta nel nostro paese probabilmente da sempre, ma adesso in maniera particolarmente grave, perché proprio per la proliferazione di appalti e subappalti, perché lì è molto più difficile controllare le condizioni economiche e normative alle quali vengono sottoposti questi lavoratori. Molto più difficile, a parte che noi abbiamo anche una situazione complessa per quanto riguarda l'ispettorato del lavoro, perché gli ispettori sono relativamente pochi e hanno anche, diciamo, proprio mezzi limitati. In alcuni posti addirittura gli manca la benzina delle macchine per andare a fare i controlli, per intendere. Ma la situazione, al di là di questa, è una situazione veramente difficile, perché la solidarietà a cui facevi riferimento era invece il principio della 1369 del 60, cioè se l'impresa appaltatrice, per esempio, non può pagare i salari ai propri dipendenti, c'è da sempre stato questo principio di solidarietà, per cui l'impresa committente deve pagare se non paga l'impresa appaltatrice, solidarietà. Ora, la solidarietà è stata, sul punto salariale è stata ridotta come numero di anni, ma non è neanche quello il vero punto. Il punto è che queste imprese, piccole, piccolissime, vanno a fare un'opera, addirittura nel settore edilizio, noi sappiamo, no, quante ce ne sono di queste, in condizioni che dal punto di vista proprio delle leggi sono quasi sempre in violazione delle norme. Quindi chi mi dice che c'è bisogno di una riforma, che ne so, delle norme in materia di sicurezza, io non sono d'accordo. Le norme in materia di sicurezza più o meno ci stanno e sono simili in tutta Europa, perché anche lì c'è una direttiva dell'Unione Europea. Il problema è che da noi devono essere verificate queste cose. E come le fai a verificare se le imprese si frammentano e non dai la responsabilità all'impresa committente? L'impresa committente dovrebbe, questa secondo me è l'unica soluzione, a parte andrebbero appunto limitati gli appalti, ma l'impresa committente dovrebbe essere responsabile per tutta la filiera, tutta la catena di appalti e subappalti. Ma questo vale a livello nazionale e a livello transnazionale. Noi stiamo lavorando un po' anche su questo, no? A pensare che le imprese multinazionali dovrebbero avere, come dire, una sorta di responsabilità per tutto quello che accade nella cosiddetta catena del valore, perché io devo anche sapere, se io sto comprando le scarpe in India, devo sapere per esempio che lì non viene utilizzato lavoro minorile, che non vengono violati i diritti umani. Non stiamo parlando di diritti umani. E lo stesso dovrebbe accadere nel nostro paese, però in maniera più sensata, cioè appunto rafforzando le tutele e attribuendo questa responsabilità all'impresa committente. In questo senso vi voglio segnalare una cosa. Sapete, no, che c'è in atto questa raccolta di firme della CGIL per alcuni referendum in materia di lavoro. Uno dei referendum, io ho un po' partecipato alla stesura di questi quesiti, che viene poco considerato perché è un po' complesso, è proprio un referendum su una norma che riguarda gli appalti e la sicurezza in materia di appalti. È una cosa piccolina, perché è difficile fare un referendum su altre cose, su questi temi. È una cosa piccolina che però mirerebbe ad estendere la responsabilità solidale, proprio come dicevi tu, no? La solidarietà, in caso di danni per infortunio, nella differenza che c'è tra quello che ti paga l'INAIL e quello che poi invece ti potrebbe garantire il giudice. Guardate che sono differenze importanti, perché in queste cause il lavoratore o la lavoratrice che ha subito un danno serio, tra quello che paga l'INAIL e quello che poi potrebbe ottenere, ci può essere una differenza di 200-300 mila euro. Questo è significativo non solo per quello che può ricavare eventualmente la lavoratrice, il lavoratore o la famiglia, ma soprattutto perché l'impresa committente ci pensa due volte prima di andare a fare un appalto o un subappalto con un'impresa che poi non è solvente, perché dice: guarda, poi mi tocca a me. Ho un'impresa che rischia di fare molti infortuni, come è accaduto per esempio a Firenze, no? Quella vicenda di Via Mariti gravissima. Lì c'era un'impresa che non era la prima volta che si trova in una situazione del genere. Quindi stiamo parlando di cose che, ripeto, non è un quesito referendario che stravolgerebbe il mondo, però che probabilmente per certi versi farebbe mettere le imprese un po' più sull'attenti, sulla scelta di quali sono le imprese a cui fare appalti e subappalti. Antonio, senti, ma per un tema, diciamo, molto ricorrente è che i salari devono essere agganciati alla produttività. E quindi, diciamo, si lega questa riflessione sempre e solo al lavoro, e quasi mai si parla di investimenti nel campo della tecnologia, dell'innovazione, della ricerca, della qualità dei prodotti e dei processi. Perché? È perché è più facile, è molto più facile collegare alla produttività e non ad altro. Peraltro anche il tema della produttività si declina sempre in una sola direzione, non ha, perché ovviamente la questione della produttività a parità di occupazione significa che molto spesso si lavora di più, cioè proprio come ore, come orario di lavoro, che è un altro grande tema da noi, perché da noi si lavora tantissimo. Sapete, ora apro una parentesi, ma sapete che con alcune organizzazioni sindacali, alcune associazioni datoriali mi sono venuto a dire che non riescono a trovare lavoratrici e lavoratori per stagionali, per il turismo, per esempio nel settore del turismo, anche quando gli applicano il contratto collettivo del settore, diciamo il contratto collettivo leader, quindi quello con salari più che dignitosi, insomma più che dignitosi, decenti, non li riescono a trovare. Sapete perché? Perché per i ragazzi e le ragazze non sono più disponibili a lavorare 16 ore al giorno, anche i weekend, per e rovinarsi, diciamo, che ne so, l'adolescenza oppure la gioventù, passandola a lavorare mentre i loro amici e amiche si vanno giustamente a divertire durante l'estate. Questo è un tema, scusami se ho fatto questa digressione che probabilmente non c'entra con la domanda che mi avevi fatto, però è una cosa nella quale invece, che a me mi dà molta speranza, perché mi fa pensare che le nuove generazioni, al di là delle questioni economiche, non sono più disponibili a buttare tutta la loro vita solo ed esclusivamente nel lavoro, come forse abbiamo fatto noi della nostra generazione e peggio ancora quelli prima. Quindi, scusate, chiudo la parentesi per dire che il tema della produttività è un tema importante, ma deve essere collegato a una regolamentazione più dignitosa dell'orario di lavoro, perché quello è uno dei gravi problemi, secondo me, del nostro paese. L'orario di lavoro quasi completamente lasciato all'autorità del datore. Le altre vie per far crescere i salari, come dicevi tu, ovviamente esistono e in altri paesi vengono portate avanti, però queste sono politiche pubbliche, sono scelte di politica pubblica, che noi però, in tutta onestà, ovviamente avete capito che io non provo grande simpatia per questo governo, ma in tutta onestà neanche quelli precedenti hanno fatto chissà che cosa. Cioè noi abbiamo abbandonato completamente un'idea di politica industriale nel nostro paese, l'abbiamo abbandonata, e quindi puntare sulla qualità e sull'innovazione significa dover investire soldi pubblici e mettere le imprese nelle condizioni di investire su qualità e ricerca e sviluppo, in maniera tale che però sanno che quell'investimento gli può essere, come dire, può essere garantito anche dallo Stato attraverso altre misure che li incentivino, perché le imprese forti queste cose le fanno, le imprese forti, l'investimento in qualità, ricerca e sviluppo lo fanno, ma perché tanto lo sanno che gli serve. Il problema è che sono tutte le altre, noi abbiamo diciamo una struttura economica talmente fragile, perché è composta da piccolissime e piccole imprese. E lì come gli fai a chiedere di investire in qualità, ricerca e sviluppo se poi hanno una complessità di gestione della loro anche organizzazione quotidiana complicata da norme e da una burocrazia obiettivamente più complessa che in altri stati nel nostro paese, e gli dici di investire in qualità, ricerca e sviluppo senza neanche dargli un incentivo serio, anche semplicemente garantire, che ne so, vi faccio un esempio, no, perché riguarda il diritto del lavoro, la ricerca e lo sviluppo lo puoi fare anche, che ne so, investendo sulla formazione dei lavoratori, ma guardate come sono i contratti di apprendistato in Italia e come sono in Germania. Vi dico solo questo, se le imprese assumono un contratto di apprendistato, quel lavoratore se lo vogliono tenere perché hanno fatto un investimento che poi gli deve rimanere, e è vietato alle altre imprese di assumerlo, cioè se lo devono tenere loro perché è un investimento. Da noi invece i contratti di apprendistato servono semplicemente per ridurre il costo del lavoro, dove la formazione non è una scelta di politica industriale che noi portiamo avanti da anni, che è quella di abbassare le tutele e abbassare i salari. Noi così vogliamo essere competitivi, e ovviamente così si è ridotto il paese in una situazione salariale disastrosa per molti versi, e per altri invece reggono, ma tramite evasione fiscale, lavoro nero, che sono poi la vera forza di questo paese, no? Come sappiamo. Chiaro. Non so se ti ho risposto, però diciamo è un... No. No, beh, insomma, è ovviamente un argomento che ha tante sfaccettature da tanti angoli. Una cosa che ti volevo chiedere è questa. Invece, per contro, stiamo parlando molto di settore privato, ma invece per quel che riguarda il pubblico, che attualmente direi che è una delle... cioè, forse siamo a un livello, quasi a un livello pari, diciamo, di complessità e di criticità, perché vediamo che comunque sanità, scuola, anche la cultura, che in teoria potrebbe essere la cultura e il servizio alla persona, sono tutti sulla linea di questa situazione che riguarda il privato. Ci sta un tentativo di far assomigliare molto, secondo te, cioè di utilizzare gli stessi criteri che si guarda, con i quali ci si comporta col privato, anche nel pubblico, cioè anche da un punto di vista della conflittualità lavorativa, perché poi insomma si desume sempre che chi lavora nel pubblico insomma è un garantito, tutti questi discorsi così molto molto aleatori, però poi nella realtà anche quello potrebbe essere un lavoratore povero in qualche modo se viene subappaltato il suo lavoro, ecco. Immagino insomma che chi lavora negli ospedali conosca la logica del subappalto tanto quanto. È chiaro che la differenza è quella che dicevi tu, ovviamente, tra il privato e il pubblico, che nel pubblico c'è questa garanzia della stabilità del rapporto di lavoro, per cui non puoi essere licenziato ingiustamente senza che questo comporti, no, la reintegrazione nel posto di lavoro, che è una norma di assoluta, come dire, civiltà, neanche semplicemente di civiltà. Nel diritto, se un atto è illegittimo, quell'atto deve essere eliminato e deve essere ripristinato allo status quo ante. Quindi, se il licenziamento è basato su un atto illegittimo, quindi io ti licenzio perché sei arrivato tardi, ma in realtà tu non sei arrivato tardi, oppure sei arrivato tardi ma non è talmente grave da licenziarti, tu avresti il diritto di dover tornare nel tuo posto di lavoro. Quel diritto che c'è nel lavoro pubblico e non c'è più nel lavoro privato è quello che fa tutta la differenza del mondo, come dicevi tu, perché poi si passa alla solita solfa dei lavoratori e delle lavoratrici pubbliche che sono garantiti, che sono dei fannulloni perché tanto non possono essere licenziati. È falso, perché nel lavoro pubblico può essere licenziato se fai delle cose che sono, se diciamo c'è una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento, puoi essere licenziato. Semplicemente non puoi essere licenziato ingiustificatamente, cosa che può accadere nel privato. E infatti nel lavoro pubblico c'è una maggior tutela perché le persone si sentono più forti proprio per questo motivo e quindi esercitano i loro diritti. È banale, ma è così. Se io so che non posso essere licenziato ingiustamente, mi iscrivo a un'organizzazione sindacale, non ci sto a fare degli orari di lavoro che non sono quelli previsti dal contratto collettivo, non, insomma, mi sento più tutelato. Detto questo, però, Hai perfettamente ragione quando dici che si replicano alcune dinamiche del lavoro privato. Le dinamiche sono proprio quella di asciugare al minimo il settore e mettere in appalto e subappalto tutta una serie di altri servizi, con misure che però, credetemi, sono antieconomiche, cioè non sono neanche convenienti per lo Stato, perché ti raccontano questa storia che in questo modo lo Stato paga meno. Ma non è vero, perché le imprese in appalto e subappalto non è detto che costino di meno di una organizzazione interna fatta bene. La differenza è quella che se l'organizzazione amministrativa è decente e dignitosa, allora riesce a gestire le proprie risorse in maniera tale da offrire un buon servizio ai cittadini e alle cittadine e non spendere neanche in maniera eccessiva. Anche perché, come dicevamo prima, anche nel settore pubblico i salari sono stagnanti, anche peggio per certi versi di alcune, soprattutto le figure apicali, diciamo, ma per dire, anche semplicemente io vi posso parlare di quello che conosco, no? Faccio il professore universitario e vedo diciamo, paragono il mio salario a quello di altri paesi europei ed è mediamente il più basso. Questo dimostra, no, uno scarso investimento nei servizi, però ripeto, anche questo non è una cosa che è iniziata oggi, ce la portiamo da decenni queste storie qui. Però l'investimento, servizi alla persona, alla cultura, la cultura in senso ampio, pensate a chi fa musica, no? Parlando in una radio, che cosa c'è di meglio che parlare della musica? Pensate a quanto si potrebbe investire nel settore della musica, che ritorno ci potrebbe essere dal punto di vista proprio economico, pensate a tutti gli eventi, alla produzione, alla digitalizzazione della musica, a tutti questi elementi che sono assolutamente, che come dire, facilitano l'accesso a questa forma di cultura come ad altre. E si tratta di scegliere se noi vogliamo appunto preoccuparci dei servizi alla persona, come dicevi tu, noi le abbiamo appaltate tutte a chi? Quasi sempre alle cooperative sociali, quando va bene, oppure alle badanti in nero, quando va peggio. E si tratta di scelte di politica. È chiaro che queste cose sì le puoi cercare di ridurre con norme di legge. Anche se poi, insomma, ripeto, il problema è sempre quello dei controlli e delle ispezioni, però almeno su quello, come dire, un legislatore serio dovrebbe indicare qual è la strada per poter garantire alle cittadine e cittadini i migliori servizi. E i migliori servizi, questo però è un mio pensiero, li offre il pubblico, perché il pubblico è controllato, dovrebbe essere controllato. Se il pubblico è controllato ed è organizzato in maniera decente, funziona meglio di qualsiasi settore privato. Questa è la mia opinione, diciamo, pur venendo dal meridione, conoscendo le difficoltà che nel pubblico ci sono nei nostri territori. Però io credo che su quello si deve puntare, su migliorarle, non su appaltare a soggetti che poi hanno solo interesse, come normale, al profitto. Antonio, ti facciamo un'ultima domanda. Ovvero quella sul report sulle povertà nel paese, report ovviamente dell'Istat, perché si legge come la quota degli occupati a rischio di povertà è all'11,5%, quella dei lavoratori dipendenti in povertà assoluta dell'8,2%, e il potere d'acquisto dei salari lordi dei lavoratori dipendenti è crollato negli ultimi 10 anni del 4,5%. Di contro, però, negli ultimi 5 anni i ricchi sono sempre diventati più ricchi. E che commento ti senti di fare in merito a questo? Il commento lo fece uno dei più grandi imprenditori americani qualche anno fa, no? Quando disse c'è un conflitto di classe e l'abbiamo vinto noi. E questo è il punto. Non è un fattore, diciamo, non è un fattore nazionale del nostro paese, stop, questa è una situazione nella quale siamo immersi, la globalizzazione ha determinato molto, molto in questo senso, ha divaricato, no? C'è stata questa polarizzazione per cui i ceti medi si stanno riducendo sempre di più e c'è questa polarizzazione: da un lato i poveri, poverissimi, e dall'altro i ricchi, ricchissimi. E purtroppo, però, su questo, che commento vogliamo fare? Bisogna rimboccarsi le maniche, ma rimboccarsi le maniche nel senso di ricostruire un'identità della persona che lavora, un'identità collettiva delle persone che lavorano, perché il fatto che ci siano ci sia questa frammentazione, no, delle organizzazioni produttive, e quindi noi non abbiamo più sempre vicino la persona con cui lavoriamo, significa che si è rotta quella solidarietà, no, quella idea di collettiva delle persone che lavorano. E ovviamente quando si rompe questo e ci ritroviamo come individui nei confronti di un altro individuo che è il datore di lavoro ed è che mediamente è più forte di noi, sei perdente, c'è poco da fare. Quindi questa polarizzazione noi la vediamo in maniera, secondo me, molto grave nel nostro paese, perché il nostro paese, a differenza di altri, non era così. Ovviamente non era il paradiso della classe operaia, però non era così. Era un paese nel quale il ceto medio ha avuto una capacità di mantenere le proprie posizioni per qualche decennio. E ormai ci siamo omologati a quelle che sono le strutture economiche e sociali di altri paesi, nei quali i poveri sono sempre più poveri e sono sempre di più, e i ricchi sono sempre più ricchi. Voi che commento vi sentite di fare su questo? Beh, diciamo che leggevo proprio adesso una cosa relativa al neoliberismo, insomma, come viene adesso amato in tutto il mondo e sponsorizzato in tutto il mondo, e la politica di molte grandi aziende è sempre quella di dire che non sono abbastanza aiutate, nonostante poi, insomma, il caso Fiat in Italia, Stellantis, adesso si chiama Stellantis, in Italia è abbastanza evidente, no? Questo gioco di scambi che viene fatto, in cui sì, noi possiamo mantenere la produttività, basta che ci aiutate ancora di più, come avete fatto nell'ultimo ventennio. No, il commento, insomma, potrebbe essere... ci sono dei grandi fan di questo tipo di politica, della restrizione, poi della perché più spazio alla libera impresa vuol dire meno spazio alla libera società, tra virgolette. Quindi, sai, insomma, mettere su questi piani, la bilancia sempre pende da una parte, ecco. La cosa più grave per me è che questa cosa sia entrata nella testa nostra, no? Delle persone che lavoriamo, perché che sia nella testa delle imprese, io, cioè, penso che è giusto che sia così, fanno il loro lavoro. Siamo noi che proprio abbiamo assunto l'idea dell'impresa, del bisogno dell'impresa come bisogni che sono nostri, che invece non è così. Ma non per niente, perché il rapporto di lavoro si basa su questo, sul conflitto tra lavoro e datore di lavoro. Ma è fisiologico, cioè solo in un periodo storico questa cosa era stata vietata, durante il fascismo. E invece è tutto il resto. Si sa che è una cosa fisiologica, quindi da un lato gli imprenditori fanno il loro mestiere e i lavoratori dovrebbero fare il loro. Fare il loro significa il conflitto, quando c'è bisogna praticarlo, ma perché è normale, fa bene il conflitto, fa bene alla società, fa bene, è fisiologico. Quando il conflitto viene annullato, viene nascosto, viene represso, questo è un male per tutti, perché poi quel conflitto esce da altre parti. Antonio, noi ti ringraziamo per aver partecipato a Ponte Radio, e quindi grazie ancora, e ti auguriamo una buona giornata. Buona giornata anche a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie Antonio. Siete sempre all'ascolto di Ponte Radio. Con me c'è Marco, che saluto. Ciao Marco. Buongiorno a tutte e a tutti. E in questa seconda parte dello speciale abbiamo come ospite Simone Fana. Simone si occupa di servizi per il lavoro e formazione professionale, ha pubblicato nel 2019 Basta salari da fame, edito dalla Terza con Marta Fana, nel 2018 ha pubblicato per la casa editrice Imprimatur Tempo rubato, una rivoluzione possibile tra vita, lavoro e società. Ciao Simone. Buon pomeriggio a voi, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Grazie per partecipare a Ponte Radio. Parto con una prima domanda. Il tema sicurezza sul lavoro è tornato all'attenzione dell'opinione pubblica e nel dibattito politico istituzionale a seguito di gravi incidenti che sono accaduti e si sono susseguiti nel nostro paese, dal cantiere dell'ipermercato di Firenze a quello in provincia di Palermo. Se guardiamo però all'incidenza degli infortuni in Europa, altri paesi stanno messi anche peggio. Diciamo, non è una consolazione, ma ciò dice che comunque è un problema generalizzato. Come si spiega secondo te? Ma il tema della sicurezza si spiega ovviamente, è un tema molto ampio che ha diverse variabili che provano in qualche modo a interpretarlo, a spiegarlo. È un tema che ha a che fare indubbiamente con la questione della precarietà del lavoro e con la sua povertà, perché spesso gli infortuni sul lavoro sono dettati dal fatto che persone che lavorano, lavorano non in condizioni, diciamo, contrattuali stabili e regolate, e quindi si trovano dentro contesti lavorativi particolarmente segnati dall'irregolarità, dal fatto che appunto si lavora in nero, fuori e oltre l'orario di lavoro, e quindi con un'alta intensità e un alto sfruttamento del lavoro. Quindi c'è un primo elemento legato al lavoro sommerso in nero, e quindi che a sua volta è collegato alla precarietà, perché è evidente che nessuno sceglie in qualche modo di lavorare in condizioni di lavoro così complicate, ma è in qualche modo costretto a lavorare in determinati settori a rischio. Quindi c'è un elemento, come dire, di lavoro nero, lavoro sommerso, che genera gli incidenti sul lavoro. L'altra questione che in qualche modo determina la questione della sicurezza o della non sicurezza del lavoro è evidentemente collegata anche all'età pensionabile, al fatto che non ci sono delle misure che oggi contrastino l'innalzamento dell'età pensionabile per determinati tipi di lavoro, che sono lavori cosiddetti usuranti, perché se guardiamo anche la normativa legata al lavoro precoce, eccetera, non incide particolarmente rispetto appunto a determinati tipi di lavoro che appunto dove le persone continuano a lavorare fino a 66, 67, 68 anni, in lavori che non sono consoni a quel tipo di età anagrafiche, che quindi non consentono anche fisicamente di poter svolgere quel tipo di attività lavorativa. Quindi c'è una questione legata al fatto che oggi l'innalzamento dell'età pensionabile e ancora il fatto che non ci siano delle misure che regolino la possibilità per le persone di andare in pensione quando svolgono attività effettivamente usuranti generano e possono generare infortuni sul lavoro, o comunque possono favorire una maggiore presenza di infortuni sul lavoro. Ecco, su questo è un'altra questione. Queste questioni, ecco, sono tra loro collegate, perché quando si parla di lavoro in nero o si parla di innalzamento dell'età pensionabile, si parla di precarietà e si parla anche del fatto che magari sono persone che non hanno versato contributi in maniera continuativa nel tempo e che quindi non riescono neanche a costruire un percorso contributivo tale che gli consente di andare in pensione. Quindi non vediamoli sempre come elementi che in qualche modo sono distanti l'uno dall'altro, separati, ma sono questioni che tra loro interagiscono. E poi indubbiamente il fatto che comunque esistono in Italia delle norme che hanno di fatto, anzi, esistono sono stati degli interventi negli ultimi anni che hanno in qualche modo depenalizzato alcune fattispecie, penso alla somministrazione irregolare di manodopera, e quindi che è di fatto l'altra faccia del caporalato, quando appunto la somministrazione avviene per consentire alle aziende di risparmiare sul costo del lavoro attraverso l'appalto, per esempio, di lavoratori tramite cooperative o tramite SRL. Questo è un fenomeno ormai comune non solo nel settore dell'edilizia, ma è un fenomeno comune da tanti settori merceologici, e lì appunto si annida lo sfruttamento del lavoro, non ci sono regole, non c'è la presenza di sindacati che riescano a negoziare, a contrattare le condizioni lavorative, a contrattare le condizioni salariali. Di fatto salta il diritto del lavoro, esiste solamente una manodopera che viene impiegata per svolgere dei lavori molto, molto, come dire, pesanti da un punto di vista dell'attività fisica e psicofisica, ma senza una regolazione delle condizioni di lavoro. Ecco, tutti questi fenomeni tendono a costituire elementi che possono produrre e possono generare insicurezza nel lavoro. Quindi io direi precarietà, l'assenza di una disciplina seria dal punto di vista pensionistico che agevoli il pensionamento, forme di pensionamento per lavori effettivamente usuranti, la presenza appunto di lavoro in nero e lavoro irregolare, e la libertà fondamentalmente che hanno oggi molte imprese di poter appaltare lavoro tramite cooperative o tramite soggetti in qualche modo che hanno come unica ragione sociale quella di appaltare appunto manodopera, che generano sfruttamento, e che laddove appunto non c'è una contrattazione sindacale, laddove non c'è una presenza dei sindacati, non ci sono regole, non ci sono soggetti che rappresentino i lavoratori, e lì si annidano fenomeni di insicurezza che possono poi generare fatti che poi diventano rilevanti ai fini della cronaca, no? Quando si parla delle morti sul lavoro, degli infortuni sul lavoro, spesso anche noi che ascoltiamo queste notizie pensiamo che siano notizie che capitano così per caso, insomma, piccole tragedie. In realtà sono processi che quotidianamente si svolgono nei luoghi di lavoro, e quindi ci sono fenomeni su cui si può intervenire a patto che ci sia la volontà di farlo, ecco. Chiaro. Ma vai Marco, scusami. Vai. Sì, sì, no, volevo chiederti quali sono i comparti più toccati, per esempio, dal settore dei dai subappalti. In quali comparti tocca di più questo? Perché poi c'è anche il collegamento fra il subappalto e quando spesso e volentieri ci ritroviamo incidenti sul lavoro che capitano proprio in queste situazioni precise. Allora, il fenomeno del subappalto ormai si è un po' esteso in realtà, e si è generalizzato non solo ai settori tradizionali, l'edilizia e l'agroalimentare sono due settori particolarmente soggetti a fenomeni di appalto e di subappalti, nel senso che sono due dei settori in cui gli incidenti sul lavoro sono più alti anche, ecco. Ma pensate a tutto il settore della logistica, che è ovviamente un settore che serve moltissimi altri servizi produttivi, cioè la logistica è di fatto l'elemento, come dire, la matrice che collega la struttura produttiva di un paese, che lega il processo produttivo di un'azienda, no? Ecco, dentro la logistica si scatenano gli appalti e i subappalti, non è un caso che tutte le grandi vertenze degli ultimi anni hanno soprattutto riguardato il settore della logistica. Quindi io direi agroalimentare, edilizia, la logistica, ma non è un fenomeno, per esempio, che non riguarda anche il settore pubblico, perché no. Noi tendenzialmente pensiamo che i subappalti siano delle catene che si generano soprattutto nel settore privato, in questi settori appunto ad alta intensità di sfruttamento, che sono quelli di cui parlavo prima. Ma anche il settore pubblico è un settore in cui gli appalti e subappalti sono diventati un elemento comune, quasi di regola, nel senso che molti dei servizi pubblici una gran parte dei servizi pubblici a causa dei processi di esternalizzazione e di privatizzazione del welfare, quindi dello Stato sociale, sono ormai oggetto di processi di subappalto. Le cooperative gestiscono i servizi per l'infanzia, i servizi di cura per gli anziani, diciamo tutta la parte appunto che dei servizi pubblici, servizi di trasporto e mobilità urbana, sono spesso e volentieri soggetti appaltati dal pubblico a soggetti terzi, e che quindi insomma ormai sono diventati anche questi settori in cui l'appalto e il subappalto diventano un elemento, diciamo, regolare, ecco, di svolgimento del processo produttivo in maniera assolutamente normale e regolare, ecco, in assenza appunto di una disciplina sugli appalti che sia una disciplina un po' più rigida rispetto a quella a quell'odierna, dove è possibile fare piccoli appalti con deregolando di fatto le norme sul lavoro, sia dal punto di vista dei salari, sia dal punto di vista appunto dei controlli, ecco, perché poi lì anche la retorica sul fare che continuamente, insomma, i partiti di destra, ma non solo, retoricamente e ogni giorno svolgono, no? Bisogna fare, bisogna lasciare fare le opere, muoversi, deregolare dalle norme, ecco, tutta questa retorica qua finisce per giustificare questi processi piuttosto che arrestarli e controllarli. Ma c'è effettivamente un problema legato al sistema dei subappalti a cascata? Sì, il problema esiste un problema macroscopico, perché innanzitutto sono filiere in cui si disperde la responsabilità. E questo è, secondo me, il tema principale, cioè non c'è più la responsabilità di impresa rispetto a questi lavoratori che lavorano nelle catene di subappalto, nel senso che sono appunto delle catene in cui intervengono vari soggetti e in cui l'impresa in qualche modo madre, che può essere un'impresa privata ma può essere anche l'ente pubblico, cioè su questo non c'è una grande differenza, non sono più responsabili rispetto a coloro che svolgono delle attività alla fine di questa filiera, alla fine di questa catena. Quindi disperdendosi la responsabilità di impresa, si disperde, come dire, il rapporto anche, che è sì un rapporto gerarchico tra l'impresa e il lavoratore, ma anche un rapporto di diritto. E cioè io, tu sei mio dipendente, svolgi delle attività che io decido, che io determino con una mia organizzazione del lavoro, ma io rispondo di questa organizzazione del lavoro. E la questione è proprio questa, cioè nelle catene di appalto e subappalto si disperde la responsabilità di imprese, quindi non si capisce più, anche per il lavoratore, contro chi eventualmente rivendicare determinate richieste, sia dal punto di vista salariale sia dal punto di vista normativo. Cioè, e questo secondo me è uno dei fattori che rende complicato anche per il mondo del lavoro riuscire a organizzarsi quando si è dentro queste filiere produttive interminabili e in queste catene appunto di appalto e di subappalto che non finiscono mai. Chiaro. Grazie. Vai, Marco. Senti, in quali settori è più invece complicata la contrattualizzazione? Cioè, riuscire proprio a mettere nero su bianco il rapporto di lavoro? Se esiste un settore dove è più complicato, dove invece è meno complicato? Perché ovviamente, insomma, è importante anche quello, cioè vengono determinati, ok, ci sono i subappalti, ma poi di fatto esistono dei veri e propri contratti di lavoro, oppure anche lì sfugge tutto strada facendo? Allora, quello che abbiamo assistito, diciamo, negli ultimi due decenni, si può dire, in Italia, questo secondo me è il settore della logistica abbastanza esemplificativo di quello che è avvenuto, è che è sempre più complicato per i sindacati, cosiddetti sindacati generali, quindi sindacati confederali, le grandi centrali sindacali, riuscire a contrattare le condizioni di lavoro è sempre più difficile, ma non perché c'è una, sì, c'è una difficoltà oggettiva, ma c'è anche un'incapacità forse di intervenire in determinati settori, si aprono sostanzialmente delle voragini nella filiera produttiva in cui il sindacato non è più in grado di intervenire e di agire. Il settore della logistica per me è stato negli ultimi 20 anni un settore esemplificativo di questo processo, nel senso che le filiere, come dicevo prima, degli appalti e dei subappalti tendono a prodursi, a produrre delle vere e proprie appunto luoghi di lavoro che non sono più collegati con il processo a monte, diventano quasi scollegati rispetto al processo a monte. Quindi, come dire, il sindacato che è abituato a contrattare con l'azienda madre e che si ferma nella contrattazione con l'azienda madre non riesce poi a intervenire in questa filiera, non riesce più a controllarla. E non è un caso che appunto sono i sindacati di base sono nati e sono cresciuti proprio dentro queste catene di appalti e subappalti, laddove l'assenza del sindacato generale era più rilevante, era più evidente. Ma se guardiamo più a 360 gradi, a mio parere, per la struttura produttiva che ha questo paese, cioè una struttura produttiva che è ancora oggi centrata sulle micro aziende, spesso anche familiari, ecco lì la presenza di sindacati è praticamente nulla. Cioè, e qua parlo anche dei pubblici esercizi, quindi parlo anche del settore del turismo, quindi non del settore della produzione manifatturiera classica, ma parlo dei servizi in questo caso, turismo, quindi ristorazione, bar che continuano a fiorire in Italia ogni giorno. Ecco, questi sono settori dove il sindacato non è presente quasi mai, di fatto. Non è un caso che se noi andiamo a vedere la copertura della contrattazione di secondo livello in Italia, oggi copre, quando parlo di contrattazione di secondo livello parlo di contrattazione aziendale, oggi copre solamente il 20% dei lavoratori impiegati. Cioè significa che c'è una stragrande maggioranza del mondo del lavoro che oggi è sempre più occupato nel settore dei servizi piuttosto che nella manifattura, perché la gran parte dell'occupazione è concentrata sui servizi, che non ha un sindacato nel luogo di lavoro a cui rivolgersi per chiedere di migliorare le proprie condizioni salariali. Quindi c'è tutto il settore del turismo, settore del turismo, ma intendo più generale il settore dei pubblici esercizi, del commercio, in cui proprio perché anche la struttura di questi esercizi è una struttura di micro aziende, di micro realtà produttive in cui i sindacati non esistono e non sono mai esistiti. Ah, infatti, come dici tu, c'è stato un aumento, diciamo, del mancate contrattazioni, dell'aumento del lavoro in nero in quelle città dove soprattutto la turistificazione di massa è aumentata. Esatto, esattamente. Infatti mi sembra, mi è capitato qualche tempo fa di intervenire in una discussione con un sindacalista emiliano, il quale diceva appunto dobbiamo cercare di fare in modo che il modello delle relazioni industriali emiliane, che si riferiva alla manifattura in particolare, venga in qualche modo allargato anche ad altri settori, ad altre realtà. Ecco, qui non si fa i conti con un dato di fatto, cioè questo è un paese molto diversificato al suo interno, sia dal punto di vista territoriale, dal punto di vista della struttura dell'impresa, dal punto di vista della composizione dei settori produttivi, non si fa riferimento al fatto che questi sono settori completamente sguarniti dalla presenza sindacale, ma non da oggi. Cioè, il punto è che i sindacati lì non sono mai nati, non sono mai esistiti. E se noi pensiamo che questi sono settori in cui l'occupazione è cresciuta negli ultimi 20 anni in maniera spaventosa, e c'è stato un trasferimento vero e proprio di occupati di lavoro dai settori manifatturieri e dal settore pubblico al settore privato e specificamente al settore dei servizi e del turismo in questo caso, quelli sono settori completamente sguarniti di rappresentanza sindacale. E lì bisognerebbe tentare di intervenire, ma non vedo io delle controtendenze in questo senso, cioè non vedo un lavoro di sindacalizzazione. Cosa che avviene per esempio in altri paesi, se pensiamo a quello che è avvenuto negli Stati Uniti, dove le grandi vertenze hanno riguardato i lavoratori del commercio, i lavoratori dei servizi, anche appunto gli addetti alle pulizie, eccetera, eccetera, c'è tutto un settore povero del lavoro che si è mobilitato, che si è sindacalizzato, che ha trovato delle forme di mobilitazione e organizzazione anche nuove, che è riuscito a farsi sentire. In Italia non c'è niente di tutto questo, c'è pochissimo. Io vorrei ritornare un attimo sulla questione sulla sicurezza, perché spesso ci si focalizza, come abbiamo iniziato, diciamo, questa chiacchierata, sugli incidenti mortali, però è anche altissimo il dato delle denunce di infortunio, che spesso si traducono in traumi fisici e psicologici e comunque rappresentano un enorme costo sociale. Sì, sì, no, è chiaro che sì, noi nell'intervento iniziale mi sono soffermato prevalentemente sulla questione degli incidenti fisici, ma è evidente che il tema degli incidenti sul lavoro deve essere contestualizzato rispetto alle condizioni psicofisiche delle persone. E ovviamente è cresciuto il mobbing, è cresciuto lo stress, esatto, da lavoro correlato, è cresciuta la condizione di difficoltà dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Anche qui le questioni sono tante, nel senso le ragioni sono tante. Io penso che la ragione prevalente è il venir meno degli elementi di solidarietà tra i lavoratori, o meglio, il venir meno delle strutture e delle organizzazioni in grado di creare legami di solidarietà dei lavoratori e in grado di creare anche dei sistemi di difesa dei lavoratori nei confronti della controparte aziendale. Cioè, questo genera spesso e volentieri una condizione di isolamento, di individualizzazione nel luogo di lavoro, di solitudine, di tentativo di rispondere a questo con appunto interiorizzando questo stato di malessere e non riuscendo a trovare dei canali di risposta rispetto a queste condizioni. Questo genera ed è generato anche da condizioni di precarietà del lavoro, nel senso che spesso appunto il ricatto nel luogo di lavoro genera sia malessere, ma genera anche ulteriore precarietà, genera ulteriore ricerca di dover soddisfare delle esigenze che non è normale soddisfare dal punto di vista degli orari, per esempio, di lavoro. E tutto questo, ecco, io credo che la ragione principale sia dovuta al fatto che manchino oggi delle strutture in grado di collegare tra loro i lavoratori, di formare legami di solidarietà e di difenderli, e quindi evitare l'individualizzazione e la solitudine delle persone nei luoghi di lavoro. Yeah. Senti, si dice che l'Italia abbia, proprio in tema di sicurezza e prevenzione, una delle legislazioni più avanzate, poi questo è da vedersi. Eppure lo scenario descritto, a tuo avviso, incide di più su questo, una questione culturale del fare impresa, cioè è il problema del fare impresa che ostacola la messa in sicurezza e la prevenzione? Perché poi, nel senso, quando tu vuoi fare il massimo del profitto e metti a rischio la messa in sicurezza, forse, diciamo, c'è un problema. Pesa un mercato del lavoro sempre più precario, dove un lavoratore è ricattabile e non può esigere queste misure adeguate? Sì, sono due ragioni, secondo me, centrali in questo, nel senso che c'è una disposizione, come dire, storica delle imprese italiane a, appunto perché è una struttura spesso familiare, molecolare, quella delle imprese, a arginare o comunque a evitare quelli che sono i controlli, che possono essere controlli sindacali nel luogo di lavoro. C'è una disponibilità, ovviamente qui non si tratta tanto di generalizzare e colpevolizzare l'impresa, ma è un tessuto produttivo storicamente centrato sulla microimpresa, sull'azienda familiare. È un settore in cui appunto non c'è un'organizzazione strutturata in cui appunto le regole possono essere fatte far valere da soggetti presenti all'interno delle aziende, ma sono aziende in cui il lavoro passa, viene appunto messo a disposizione del processo produttivo senza troppi argini e troppi controlli. C'è una manodopera che viene utilizzata, ecco, in maniera molto rapida, molto, molto veloce, senza appunto elementi di negoziazione. E quindi c'è una struttura delle imprese che in qualche modo ha sempre visto i controlli, che possono essere i controlli ispettivi, che può essere il controllo sindacale nel processo produttivo, come un elemento di noia, fondamentalmente, un elemento di fastidio, non come un elemento di diritto. Questo fa parte, a mio avviso, della dell'ossatura storica dell'impresa, della piccola impresa italiana, cioè il vedere il controllo come, che può essere sia sindacale, ma può essere anche di soggetti esterni, come un elemento di fastidio. È come un elemento da evitare, magari trovando degli escamotage, che possono essere delle forme appunto di contatti informali con soggetti esterni. Pensiamo anche a delle reti di corruzione di clientela che si producono, perché stiamo parlando anche di questo, no? E quindi c'è questo elemento. C'è sicuramente un elemento legato alla precarietà e alle condizioni dell'offerta di lavoro rispetto alla domanda. Questo è un paese, al di là di quello che si dice, in cui il tasso di disoccupazione rimane un tasso di disoccupazione molto alto, e quindi c'è una presenza, un'offerta di lavoro, cioè lavoratori si offrono al mercato del lavoro molto di più di quanto le imprese domandano lavoro. Questo al di là che oggi i giornali, oggi non solo oggi, ma da un po' di tempo i giornali dicono ci sono settori produttivi che sono completamente scoperti di manodopera, cioè, ma da un punto di vista strutturale, i dati generali dicono questo. C'è molta più gente che si offre rispetto a quanta le imprese domandano. Questo che cosa genera? Genera ovviamente condizioni di ricattabilità, genera il fatto che un'impresa può assumere un lavoratore decidendo un sottosalario rispetto a un salario previsto dai contratti collettivi o in assenza appunto di forme di salario minimo legale universalizzato, e quindi possono contrattualizzarli in forme di contratto ultra precarie perché hanno disponibilità in qualche modo dal punto di vista dell'offerta di lavoro, essendoci quel tasso di disoccupazione di cui parlavo. Quindi è chiaro che questi sono due elementi, due cause che generano insicurezza, che generano anche poi fatti come quelli di cui abbiamo parlato prima, insomma, di cronaca, che diventano fatti di cronaca, ma se uno provasse un attimo a analizzarli bene, capirebbe che sono processi sociali. E tutti i processi sociali sono processi che possono essere invertiti, cambiati. Non sono processi naturali, non sono singole tragedie, ma sono l'esito di un rapporto di forza che c'è tra le varie classi sociali, o meglio, tra i vari soggetti sociali. Sono rapporti di forza che si generano nel mercato del lavoro e che conducono a una condizione di schiacciamento da parte di una parte rispetto ad un'altra, e che è poi la causa fondamentale, la ragione fondamentale dell'insicurezza. Quando usiamo appunto la parola insicurezza, intendiamo tante cose, ovviamente. Senti, a proposito di provare a invertire la rotta, c'è in campo questa proposta referendaria per l'abrogazione dell'articolo 18, suddivisa in quattro proposte differenti, che sono appunto il lavoro tutelato, il lavoro dignitoso, il lavoro stabile e il lavoro sicuro. E, diciamo, ipotizziamo che queste proposte referendarie vadano in porto e al referendum ci sia un grande successo per abrogare l'articolo 18. Il giorno dopo, quali sono le cose che uno può, da un punto di vista proiettivo, immaginare che possano essere messe in campo a livello di azione, di entrata diretta sui problemi che abbiamo citato, perché poi è molto importante cercare di immaginare uno scenario diverso una volta se, certo. questi referendum andranno in porto, come penso si augurino molte persone. Secondo me ci sono, ovviamente ci sono degli interventi normativi sulla scorta di questo ipotetico referendum che vada in porto, eccetera, che si possono fare già da domani. Sono interventi che a mio avviso devono andare a incidere sulla stabilità del lavoro. Quindi quando parlo di stabilità del lavoro parlo sia dal punto di vista del diritto, quindi della tipologia, della forma contrattuale attraverso cui i lavoratori possono essere assunti, e sia dal punto di vista salariale, perché questi due elementi poi generano a cascata ulteriori elementi di protezione del lavoro e quindi di maggior controllo dei lavoratori anche all'interno dei processi produttivi. La questione per me fondamentale rimane quella di mettere un freno decisivo al lavoro a termine. E quindi quando parlo di lavoro a termine intendo anche alcune forme di part-time involontario, ma porre un argine al lavoro a termine in maniera decisa, cioè nel senso non è possibile che le aziende possano ricorrere, come meglio credono, ad assumere lavoratori a tempo determinato e quindi a potersi disfarre quando lo ritengono opportuno, senza delle clausole che indicano quale e perché si assume a termine. Sono per esempio interventi che un intervento in controtendenza sul lavoro a termine era stato fatto durante il governo, se non sbaglio, Conte 1, dove il Movimento 5 Stelle aveva riproposto le clausole per evitare appunto il ricorrere dei contratti a termine. Quello è un primo elemento, secondo me, ridurre l'incidenza dei contratti temporanei. Ridurre l'incidenza dei contratti temporanei avrebbe un beneficio per il lavoro a tempo indeterminato e quindi un beneficio anche dal punto di vista salariale. Il caso spagnolo della riforma del mercato del lavoro in Spagna è emblematico di questo. Cioè l'intervento sui contratti a termine per ridurre l'incidenza dei contratti a termine genera lavoro a tempo indeterminato, che è un lavoro ovviamente dove c'è una maggiore stabilità. Un'altra cosa è intervenire su una materia che è quella della somministrazione irregolare di manodopera, che è una materia che deve essere punita penalmente. Cioè su questo non ci possono essere più dubbi. Cioè bisogna frenare il lavoro in appalto quando presenta quelle caratteristiche appunto di somministrazione di soggetti che appaltano esclusivamente manodopera, che quindi intervengono nel processo produttivo esclusivamente fornendo manodopera a basso costo alle aziende. Ecco, quello è un fenomeno che va, dal punto di vista normativo, bisogna reintervenire punendo penalmente e non solo punendo appunto con un'ammenda amministrativa, che non è un disincentivo poi per le imprese a ricorrere a quel tipo di forma di somministrazione irregolare di lavoro. Quello secondo me è un altro elemento fondamentale da un punto di vista normativo per arginare fenomeni di sfruttamento, e poi sono anche fenomeni di caporalato, di nuovo caporalato. L'altra questione secondo me rilevante è quella che bisogna ripensare complessivamente il ruolo dei servizi pubblici, nel senso che bisogna cominciare a dire con maggiore franchezza che i servizi pubblici devono essere gestiti dal pubblico, controllati, diretti e gestiti dal pubblico, nel senso che bisogna frenare questa esternalizzazione selvaggia e questa privatizzazione selvaggia del welfare. Perché bisogna fare in modo che una gran parte dell'occupazione oggi in questi settori privati, che sono settori appunto dove i salari sono bassi e dove diciamo il mondo delle cooperative, il welfare mix, il welfare privato è in sostituzione di quello pubblico, i salari sono più bassi, la qualità di questi servizi è poi più bassa, e quindi la qualità dei servizi di cui beneficiamo tutti noi, no? Ecco, credo che l'intervento su quella materia, che è una materia ancora più complessa, perché non significa esclusivamente intervenire sul diritto, ma significa intervenire sulla politica economica. E quindi dire oggi quali sono i settori che lo Stato deve gestire in maniera autonoma, senza poterli appaltare al privato, significa rafforzare quello che abbiamo indebolito di più, e cioè lo Stato sociale, e tornare a pagare dignitosamente queste persone, dargli riconoscere la qualità del lavoro e del servizio che svolgono per la comunità, anche dal punto di vista economico, e poi in buona sostanza dare un servizio migliore ai cittadini, e questo, di questo poi si parla. Ne potrei citare altri, nel senso che poi ci sono ulteriori interventi per me fondamentali. Un altro è quello del salario minimo legale, che è un altro intervento fondamentale per rafforzare la contrattazione collettiva. Questo è un paese che ha un ritardo nel rinnovo dei contratti collettivi che è troppo grande, cioè ormai i contratti collettivi vengono rinnovati dopo 2-3 anni che scadono. Questo genera che in condizioni in cui l'inflazione si impenna e quindi l'indice dei prezzi aumenta, ma i salari rimangono fermi perché sono ancora fermi alle vecchie scadenze contrattuali, si genera una carenza di potere d'acquisto enorme per i lavoratori e le lavoratrici. E oggi il salario minimo significa porre un pavimento sotto il quale nessun tipo di contratto collettivo può scendere, e quindi i contratti collettivi possono semplicemente andare sopra il livello salariale stabilito dalla legge e non possono scendere sotto. Sono tutti interventi di protezione del lavoro che possono essere fatti domani mattina se ci fosse la volontà politica, se ci fossero soggetti in grado di rappresentare quel voto favorevole, speriamo, referendario, e che però possono costituire dei tasselli fondamentali per rimettere in sicurezza questo paese. Simone, ti facciamo un'ultima domanda. Quanto c'è ancora da fare in tema di formazione sia dei lavoratori che delle aziende? Dobbiamo, diciamo, rassegnarci a questi fatali avvenimenti, oppure l'opzione zero morti sul lavoro è raggiungibile in un sistema come questo attuale, fatto di relazioni, di modello di impresa, di mercato del lavoro? Allora, io credo che sì, che è una battaglia che vada fatta ogni giorno. Il tema della prevenzione, della formazione, quindi formare per prevenire sia centrale. E però vanno aiutati questi soggetti, nel senso questi soggetti che poi hanno il compito di formare, no? Perché ci deve essere un contesto... appunto un contesto produttivo che deve essere sensibilizzato realmente a questo tipo di questioni. Cioè non si può dire esclusivamente bisogna fare prevenzione nei luoghi di lavoro se poi si disabitua le aziende a investire sulla sicurezza, si disabitua le aziende a pensare che la sicurezza è un investimento e non è un costo, si disabitua a pensare alle imprese che i lavoratori e le lavoratrici sono dei soggetti che hanno dei diritti e che e non sono esclusivamente una merce da scambiare nel mercato del lavoro. Cioè, voglio dire, la retorica sulla formazione ha senso se accompagnata da una serie di interventi anche dal punto di vista normativo, ma anche dal punto di vista della battaglia culturale, che renda il settore produttivo accogliente rispetto a questi interventi formativi. Perché se tutto questo manca, se tutte queste condizioni non ci sono, e che quindi appunto le imprese possono decidere cosa fare dei lavoratori e come farne, possono assumere in forme diverse, possono non fare i conti con i sindacati e con le regole, eccetera, eccetera, come dire, la prevenzione e la formazione diventano due retoriche vuote, perché sono svuotate da un contesto che è invece contrario fondamentalmente a tutte quelle condizioni necessarie per la sicurezza. No. Bene, noi ti ringraziamo. Marco, tu hai qualche altra domanda per Simone? Grazie Simone. Grazie a voi. Grazie Simone, grazie. Per l'intervento e per aver partecipato a questo speciale sul lavoro. Grazie mille a voi. Ciao di nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Siete sempre su Radio Quar e state ascoltando Ponte Radio, speciale lavoro. In quest'ultima parte intervisteremo Francesca Maffei, assegnista di ricerca in diritto del lavoro presso l'Università della Tuscia. Ha scritto diverse pubblicazioni su riviste scientifiche, sia italiane che estere. Ciao Francesca, grazie per essere qui con noi. Ciao, grazie a voi per avermi invitato. Ciao Francesca. Ti faccio una prima domanda. Esiste un problema di rappresentanza sindacale nei posti di lavoro e se ad oggi il diritto allo sciopero in certi settori è messo in discussione? Allora, grazie per la domanda. In realtà, diciamo, rappresentanza sindacale e diritto allo sciopero sono veramente due temi che vanno tenuti insieme. Oggi c'è sicuramente un problema di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, ma questo non tanto per un problema, diciamo, normativo delle norme che lo regolano, quanto piuttosto proprio di capacità delle strutture sindacali di intercettare alcuni luoghi di lavoro. Infatti farei, diciamo, una distinzione tra diciamo, le aziende nei quali le rappresentanze sindacali nella loro duplice veste aziendale unitarie ci sono. Qui io ritengo che il problema della rappresentanza sindacale ci sia per uno scollamento che esiste tra questi soggetti, che sono portatori sicuramente di una serie di diritti e che svolgono delle funzioni rispetto alla partecipazione dei lavoratori vera e propria. Quindi quando ci sono magari stanno lì a svolgere delle attività di carattere istituzionale, però non necessariamente sono poi legati con la base. Poi ci sono tutta una serie di aziende nelle quali le rappresentanze sindacali non ci sono proprio, o perché sono aziende piccole, quindi non raggiungono i requisiti dimensionali che il legislatore prima o comunque gli accordi interconfederali richiedono perché ci possa essere una rappresentanza sindacale, oppure non ci sono perché, anche se hanno i requisiti dimensionali, in realtà non hanno una storia appunto sindacale tale per cui, diciamo, c'è un interesse del sindacato ad avere una rappresentanza. E qua, diciamo, le problematiche sono varie, nel senso che le aziende nelle quali non ci sono rappresentanze sindacali sono aziende sicuramente caratterizzate da, diciamo, una forte frammentarietà interna. Una cosa è l'azienda con 700 operai e lì il sindacato magari ha più interesse ad affacciarsi o comunque ha più ascolto, e una cosa è il supermercato con 7 dipendenti o le catene. Magari c'è comunque un problema di classe anche all'interno delle aziende frammentate, ma questa frammentarietà, diciamo, determina un'incapacità del sindacato di inserirsi. Quali risposte secondo me potrebbero essere varie, nel senso che forse questi canali istituzionali delle rappresentanze, così come noi oggi li conosciamo, dal momento che si è compreso che non riescono più ad essere presenti in tutti i luoghi di lavoro, forse andrebbero pensate, diciamo, in un mercato del lavoro che è sempre più dematerializzato, con luoghi di lavoro sempre più, come dire, nel mondo digitale, sempre più piccoli, sempre più frammentari, forse andrebbe ripensato il luogo in cui il sindacato fa rappresentanza, secondo me. Diciamo, il problema del conflitto, dello sciopero, del diritto di sciopero è molto legato a quella della crisi della rappresentanza nei luoghi di lavoro. Nel senso che, premetto, lo sciopero in Italia è un diritto costituzionalmente garantito e questo è un fatto, quindi, diciamo, esiste una norma costituzionale che copre le forme di astensione da lavoro come diritto, il che vuol dire che i lavoratori che scioperano, diciamo, perdono retribuzione durante le ore di astensione, ma non possono avere provvedimenti disciplinari. E questa, diciamo, è lo stato. Però il lo sciopero, anche se è sicuramente un diritto del singolo lavoratore a titolarità individuale, si dice, intanto esiste in quanto c'è un'organizzazione. Non è obbligatorio che ci sia un'organizzazione che proclama lo sciopero, ma è indubbio che, diciamo, le forme di conflitto sono molto più radicalizzate, cioè si creano in realtà soltanto se c'è una forma organizzativa, ora istituzionalizzata o meno, cioè il sindacato confederale o meno, che quello sciopero lo organizza, che in qualche modo lo coordina. E quindi se viene meno la capacità del sindacato di stare sui luoghi di lavoro, di avere appunto rappresentanze o altre forme autonome, anche il conflitto in qualche modo si depotenzia molto. Oggi, diciamo, i tassi di conflittualità sono praticamente inesistenti, sono prossimi allo zero nel lavoro privato, sono abbastanza presenti invece lavoro pubblico, anche, diciamo, seppur privatizzato, e questo è molto indicativo, ovviamente, perché la stabilità che caratterizza il lavoro pubblico diciamo determina maggiore volontà dei lavoratori di fare conflitto, ma in realtà non è neanche solo questo, è anche che il lavoro pubblico è molto più geograficamente presente, cioè nel senso la scuola, la sanità sono luoghi di lavoro dove i lavoratori ci vanno e quindi è più facile coordinarsi, quindi la geografia è un aspetto importantissimo per fare conflitto. E poi c'è un altro elemento, cioè che il lavoro pubblico si caratterizza per una forte parità di trattamento dei lavoratori, quindi i lavoratori hanno, sono più facilmente classe tra di loro. Nel lavoro privato non esiste un principio di parità di trattamento e questo determina che i settori non sono per forza solidali tra di loro e uno sciopero, un conflitto intersettoriale è difficilissimo da coordinare. Parlando dei nuovi lavori, insomma, chi lavora nell'ambito del digitale, chi lavora nell'informatica, i riders, perché non esiste un diritto che li può adeguatamente tutelare? Cioè, forse a livello europeo qualcosa è stato fatto, ma parliamo del nostro territorio. E, diciamo, questi lavori così per molto tempo venivano chiamati lavoretti, quindi diciamo proprio quasi in senso denigratorio per i rider, per le persone che fanno le consegne oppure per i cosiddetti crowd workers, no? Tutti quelli che lavorano un po' nel digitale, i traduttori. Beh, per questi diciamo c'è un problema enorme, nella maggioranza dei casi non sono lavoratori subordinati, anzi non sono mai lavoratori subordinati, ma sono lavoratori autonomi. Quindi per loro il primo problema è poter in qualche modo rivendicare uno statuto protettivo che nel nostro ordinamento è tutto tarato sulla subordinazione. E in Italia sono state fatte delle norme per provare ad estendere, diciamo, alcune delle tutele del lavoro subordinato fuori dall'ambito della subordinazione e in particolar modo guardando ai rider. I rider in questo sono stati, diciamo, traino di un grandissimo avanzamento del ragionamento e anche una grandissima capacità poi di fare conflitto e anche di insegnarci come, pur lavorando, come dire, non in un luogo geografico, ognuno per fatti suoi, non essere molto spesso giovani, hanno saputo coordinarsi comunque, hanno saputo portare avanti delle istanze comuni, tant'è che il sindacato ha intercettato, diciamo, i rider e poi ha cominciato tutto il contenzioso per il riconoscimento della subordinazione o della etero-organizzazione, quindi di quest'altra forma di estensione delle tutele del lavoro subordinato anche a loro, ma li ha intercettati quando loro già erano diciamo, stati capaci di organizzarsi tramite strumenti digitali. Quindi direi che il problema del nostro ordinamento è che il diritto è tutto tarato su un'idea di subordinazione molto classica e che le imprese quindi che cosa fanno? Cercano di creare delle nuove forme di lavoro che magari sono anche subordinate, ma non ci mettono quegli elementi tipologici tali per cui è subito evidente che sono subordinate e li trattano come lavoratori autonomi. Il nostro mercato del lavoro è un mercato dicotomico in cui c'è uno statuto protettivo per il lavoro subordinato e tutto ciò che è fuori dalla subordinazione è sprovvisto di tutele. E questa è la ragione per cui loro, diciamo, si trovano al momento a dover sempre passare per una rivendicazione giudiziale per avere poi forme di tutela maggiore. Invece, passando a parlare di smart working, perché non viene preso in considerazione come un effettivo strumento di lavoro e non viene disciplinato come legge quadro, invece viene lasciato solo ad accordi individuali? Parto dalla seconda parte, poi torno alla prima. Viene disciplinato solo da accordi individuali, pure ovviamente in una cornice normativa che comunque c'è stata nel 2017, ma il dettaglio è rimesso, diciamo, agli accordi individuali, perché questo strumento che apparentemente politicamente viene presentato come uno strumento di conciliazione vita-lavoro è in realtà anche uno strumento di grande produttività nelle mani delle imprese, sia perché risparmiano costi, ovviamente, è inutile dirlo, ma sia soprattutto perché, diciamo, mentre la prestazione di lavoro subordinata è, diciamo, si dice un'obbligazione di mezzi, nel senso che tu non è che devi raggiungere dei risultati, tu offri le tue energie lavorative per un certo tempo come dipendente, invece nello smart working tu hai degli obiettivi, quindi si conta anche la tua produttività e anche i poteri di controllo, diciamo tutti i poteri datoriali sono poteri che mutano e diventano anche magari più invasivi con lo smart working. Quindi la ragione per la quale, diciamo, è tutto rimesso al contratto individuale è perché questo è uno strumento, come dire, di flessibilità. E la flessibilità richiede di guardare alla singola situazione, devo fare gli obiettivi su quella singola posizione lavorativa, devo concordare con lui come esercitare il potere di controllo, quindi ha una taratura molto individuale perché, come dire, la finalità è una finalità di flessibilità e di produttività. Arrivo alla seconda parte, perché diciamo non si è diffuso così tanto, tra virgolette, qua devo dire che ci sono due ragioni. Un po' c'è stata sicuramente una ritrosia delle imprese per un po' di tempo di adottarlo, perché magari non capivano bene come farlo diventare veramente uno strumento di produttività. Però devo dire che, diciamo, il nostro ordinamento non è neanche così tanto preparato, nel senso che l'esperienza dello smart working diffuso che abbiamo sperimentato, diciamo, nella fase pandemica, ha anche fatto vedere quelli che sono i grandissimi rischi che a livello sociale e a livello di sicurezza lo smart working determina. Quindi ad oggi o si fa un ragionamento, diciamo, collettivo, anche passando soprattutto per una sorta di egemonia anche della contrattazione collettiva sul punto, oppure si rischia veramente che, diciamo, lo smart working poi diventi uno strumento che nasce per conciliare anche le esigenze del lavoratore e invece diventa uno strumento soltanto di produttività nelle mani delle imprese. Senti, invece noi spaziamo molto nelle domande, però effettivamente avere la possibilità di parlare con te è anche un modo per poter capire tante cose e dare tante informazioni insieme. E sì, c'è un problema di innalzamento dell'età pensionistica, ma questo a livello sociale che cosa sta determinando, che cosa nel fatto determina, cioè c'è tanta gente che è costretta ad andare a lavorare, che è costretta a lavorare per molto più tempo e poi non c'è, vediamo il comparto pubblico, non c'è ricambio. Certo. Non c'è ricambio e poi c'è anche un problema di rischio probabilmente in determinati settori lavorativi. Sì. Che ricaduta c'è a livello sociale invece? Allora, diciamo, l'innalzamento dell'età pensionistica, che è una scelta del legislatore, ovviamente dello Stato, per ragioni di finanza pubblica, quindi lo sappiamo tutti, non è una scelta che prendono le parti del contratto di lavoro, se non in alcuni casi in cui, diciamo, una delle due parti fa un'opzione in tal senso, la parte del lavoratore, però diciamo è un'imposizione che viene dallo Stato. I rischi e che viene subita, attenzione, anche dalla parte datoriale, e qua vengo al problema della sicurezza. Innanzitutto, diciamo, secondo me l'innalzamento dell'età pensionistica, oltre ai problemi di ricambio generazionale, di mercato del lavoro, indica una grandissima miopia del legislatore e soprattutto, come dire, una visione della società come luogo dove l'uomo ha una sua valenza in quanto soggetto produttore. Non si tiene proprio conto dei meccanismi, degli spazi di cura, non so come dire, che una persona durante la sua vita, dall'infanzia fino, diciamo, alla morte, deve poter avere per se stesso. E quindi si dice, se tu sei una persona che ancora può contribuire, io ritengo che il tuo dovere sia continuare a farlo, il tuo dovere, appunto. Quindi, diciamo, dà proprio una visione, l'uomo è funzionale soltanto se può continuare a lavorare. Ripeto che è una visione miope per tante ragioni, in primo luogo perché appunto non dà proprio luogo all'idea che invece un individuo possa contribuire a livello sociale anche una volta andato in pensione, liberando energie in altri spazi che invece la vita lavorativa gli aveva compresso, quindi di partecipazione, non so, alla vita comunitaria, alla vita collettiva. Tutto questo non è preso in considerazione ovviamente dal legislatore, ma poi i rischi che si creano sono molti, alcuni sono molto visibili. Ovviamente io innalzo l'età lavorativa, il lavoratore è più stanco quando fa lavorazioni magari più pericolose, i rischi di sicurezza si innalzano, e anche se diciamo fa lavorazioni magari più complesse. E vabbè, queste sono visibili in quanto tali, potrebbero anche, diciamo, sono un problema, ma almeno sono un problema visibile. Ma poi c'è un problema di sicurezza invisibile. Il lavoratore che diventa più anziano e che continua ciò nonostante a lavorare, innanzitutto è molto più inviso al datore di lavoro che magari non lo voleva, appunto, perché questa è una scelta subita dalle imprese. Ma i rischi di mortificazione che lui può provare sul luogo di lavoro, forme di discriminazione diretta e indiretta nel luogo di lavoro per ragioni legate all'età, all'incapacità di adattamento, alle nuove strumentazioni, insomma tutte queste cose che creano rischi di sicurezza invisibile ma molto preoccupanti, non sono proprio prese in considerazione nell'agenda politica, eppure sono un rischio anche di natura economica oltre che di natura sociale. Invece volevamo, come ha detto Marco, visto che stiamo spaziando molto, parlare con te delle precondizioni e conseguenze di una causa di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici. Cioè, cosa devono fare, secondo voi? Cioè, come funziona un po' brevemente una causa? Sì, e soprattutto quali possono essere poi le conseguenze di una causa di lavoro, anche a livello come ti posso dire, di salute mentale. Allora, diciamo, il processo del lavoro è un processo a struttura individuale, nel senso che è creato per garantire la posizione di un singolo individuo, in questo caso il lavoratore, insomma, nella maggior parte dei casi ricorrenti sono lavoratori. Cioè è difficile che è l'impresa che fa causa al... Ci sono dei piccoli casi in cui il processo è invece ha una struttura un po' più collettiva, insomma sono quando è per condottenti sindacali, quindi è fatto da corpi intermedi, ma diciamo sono casi non così diffusi. Il processo è a struttura individuale e insisto su questo punto perché questo è il grandissimo rischio, diciamo, che io vedo nei processi del lavoro. Non so se ci sono altre forme di tutela, cioè forse per la tutela del diritto si passa per questo tipo di struttura qui, quindi non è una critica, è più, diciamo, una constatazione che fa sì che il lavoratore, proprio per la struttura individuale del processo, è molto isolato durante lo svolgimento del processo stesso, perché sta portando le sue istanze contro la parte datoriale sostanzialmente da solo, sulla sua posizione individuale. In questi ricorsi collettivi, cioè quando il sindacato riesce a farsi un po' portavoce, no, di una situazione che è diffusa tra i lavoratori, non so, è cambiato il contratto collettivo, la retribuzione non è sufficiente per più lavoratori, oppure c'è una condizione, un contratto aziendale che è stato firmato, che introduce una normativa che fa male a tutti i lavoratori dell'azienda, e quindi, come dire, si fa istanza e fa sì che vengano fatti ricorsi collettivi. Le cose, insomma, le forme di isolamento che si possono sentire durante lo svolgimento del processo magari vengono meno. Il nostro ordinamento ha un po' di garanzie per il lavoratore, per far sì che magari alcuni suoi diritti li può rivendicare anche direttamente quando finisce il rapporto di lavoro, quindi non li deve fare in costanza di rapporto e non per questo li perde, come per esempio per i crediti retributivi se si tratta di rapporti instabili. Comunque il problema essenziale è che il processo è un momento di isolamento In questo veramente si dovrebbero creare, diciamo, delle garanzie di accompagnamento processuale dell'individuo e del singolo lavoratore. Io vedo anche delle difficoltà nelle precondizioni, almeno nella mia esperienza, perché i lavoratori non necessariamente conoscono quelli che sono i loro diritti, quindi non sanno neanche qual è la rivendicazione che devono fare. Anche in questo, diciamo, io vedo un grandissimo problema culturale. I contratti collettivi spesso non sono comprensibili, non sono intellegibili dall'utente, dal fruitore, da chi poi è il lavoratore sul quale ricade quel contratto collettivo. Quindi bisognerebbe veramente fare delle scuole, anche di, cioè delle linee di spiegazione di quelli che sono i diritti che uno può rivendicare. Poi questa è un po' la mia, diciamo, una mia idea da sempre, in parte l'ho anche fatta, quella di fare il cosiddetto strumentario processuale per un lavoratore, perché le cause non si improvvisano, si devono strutturare, perché il lavoratore, per fare e portare avanti le rivendicazioni e avere anche una certa garanzia di vittoria, deve avere tutti gli elementi, cioè deve dare le prove e quindi sapere da prima che cosa deve guardare, che cosa gli serve per poi portare avanti questa rivendicazione, è quello che poi lo aiuterebbe a uscire dall'isolamento che, ripeto, il processo spesso determina a carico del singolo, perché anche se poi si conclude con una vittoria, se lui poi deve tornare, si è fatto tutto il processo da solo, diciamo come singolo, e poi deve tornare nel luogo di lavoro in cui è l'unico magari aver portato avanti quell'istanza, io capisco che questo può essere molto disorientante. E senti, un'altra domanda ti volevo fare. Noi abbiamo seguito tutto il processo, tutta la vicenda della GKN nella sua evoluzione, e che ha comunque tracciato un confine nel modo di condurre un conflitto, ma esistono altre realtà simili in Italia, e perché secondo te, se esistono, si fa fatica a farle emergere? E, diciamo, la storia della GKN, che è una storia bellissima dal punto di vista della capacità di fare conflitto, è una storia, almeno per a quanto mi costa, del tutto inedita. C'è dietro quello una grandissima volontà e capacità di lettura del reale, una grandissima capacità di organizzazione che non è stata improvvisata. Loro hanno una storia sindacale interna, anche una capacità di mettere in discussione quelle che erano le forme del sindacato istituzionalizzato, quindi di affiancare a quello forme di auto-organizzazione invece più spontanea nel luogo di lavoro. La GKN ha creato appunto il collettivo di fabbrica, ma non rendendosi conto che non c'è conflitto tra le realtà, come dire, organizzate interne, anzi l'una può essere stampella dell'altra. Io non conosco altre realtà come quelle della GKN in Italia, sono però sicura che diciamo il merito della GKN è stato anche quello di aver evidenziato la necessità di una grandissima solidarietà tra le lotte. Cioè, il fatto di andare in altri luoghi di lavoro a raccontare questa storia, a far venire nei loro luoghi di lavoro lavoratori provenienti da altri settori, ma anche lavoratori che non hanno assolutamente niente a che vedere con quel diciamo frammento merceologico, quindi che fanno proprio altro, e ciò nonostante, quindi intercettare le lotte, farsi tra virgolette, come dire, luogo cardine, no? Luogo di incontro delle lotte, è stata sicuramente, è oggi il lascito più grande che questa esperienza, diciamo, sta dando. L'idea è di successo. Speriamo con grandissime possibilità di successo. Sicuramente l'idea della rete solidale, no? Cioè di un luogo che, nel quale si fa solidarietà di classe, è stata, diciamo, un'esperienza, è oggi un'esperienza emozionante che in qualche modo supera anche la grandissima fatica che questi eroi, voglio dire, della vita, questi eroi dei tempi moderni stanno portando avanti. Ma anche dal punto di vista del rapporto con le istituzioni, perché mi sembra che comunque si pongano in un modo molto attivo e in modo tale che poi le istituzioni non sono in grado di ignorare quello che sta succedendo. Non c'è mai un'improvvisazione da questo punto di vista. Loro sono il risultato di un lavoro cominciato molto lentamente, ma di un lavoro fatto sul territorio intendo nella fabbrica, di grandissima capacità di far evolvere anche, ripeto, quelle che erano le forme sindacali più istituzionali, di farle affiancare ad altro, di tener conto appunto delle istanze, di leggere la storia, di guardare alle storie estere. E quindi, diciamo, questa lotta, che è una lotta difficilissima, è nata veramente come processo finale di un lavoro molto più lento, è cominciato tantissimi anni fa. Qui, diciamo, ritorno alla prima domanda che avete fatto. Senza rappresentanza non c'è conflitto, cioè, questo, senza rappresentanza sui luoghi non c'è conflitto, perché il conflitto, per quanto la norma tuteli anche quello spontaneo, il conflitto è sempre organizzato. Noi volevamo farti un'ultima domanda, ovvero quello di... Tu hai anche scritto una pubblicazione che era La regolamentazione del conflitto e dello sciopero in Francia, e volevamo chiederti se esistono differenze tra l'Italia e, diciamo, il resto dell'Europa. Quando parliamo di regolamentazione del conflitto, parliamo di una cosa, diciamo, molto particolare, che in Italia era un po' riapparsa, diciamo, nel dibattito scientifico, c'era da tanto tempo, però nella pratica sociale non esisteva, cioè quella di introdurre all'interno di contratti collettivi delle cosiddette clausole di tregua sindacale. Il sindacato si impegnava nei confronti della controparte datoriale a non fare conflitto su alcuni temi che erano stati oggetto di contrattazione. Questa, diciamo, clausola di tregua, che in qualche modo era riapparsa appunto nel contratto Fiat e durante tutto quel periodo, aveva fatto interrogare sulla possibilità veramente di regolamentarlo contrattualmente il conflitto. E queste clausole di tregua sindacale, in Francia si chiamano clausole di pace sindacale, in realtà, diciamo, anche quando sono presenti non hanno fortunatamente nessun valore, perché lo sciopero è pur sempre un diritto a titolarità individuale, chiede l'esercizio collettivo, chiede, per le ragioni che ci siamo detti, che ci sia un'organizzazione e via dicendo, ma, diciamo, il sindacato non può vincolare il singolo a non scioperare su alcuni temi quando è lui ad aver firmato il contratto collettivo. Per quanto riguarda la situazione italiana rispetto al resto dell'Europa, paradossalmente l'Italia e anche la Francia, perché le due costituzioni, quella italiana e francese, dal punto di vista del riconoscimento del diritto dello sciopero sono identiche, cioè quella italiana ha copiato la Costituzione francese in questo. Comunque l'Italia e la Francia sono tra i pochi paesi che riconoscono lo sciopero come diritto in Costituzione, quindi come diritto assolutamente intangibile. Negli altri paesi, diciamo, lo sciopero viene magari declinato solo come libertà, ma non come diritto. E anche se l'Italia e la Francia lo declinano come, diciamo, diritto, in realtà hanno approcci completamente diversi, cioè la norma è la stessa, ma hanno approcci completamente diversi rispetto al diritto dello sciopero, perché la Francia è un paese molto più conflittuale, ma dove il tasso di sindacalizzazione è molto più basso rispetto in Italia. E quindi, diciamo, gli scioperi sono molto più di carattere spontaneo. Invece l'Italia è un paese dove il tasso di iscrizione sindacale è molto alto, e quindi lo sciopero, anche se non è necessario che passa, ripeto, per il profilo organizzativo, per il profilo collettivo, cioè non deve essere per forza il sindacato ad organizzarlo, è molto invece più vincolato all'intromissione e all'organizzazione del sindacato. Chiaro. Francesca, noi siamo arrivati alla fine. Non so se Marco ha qualche altra domanda. No, grazie. Quindi grazie. Veramente ti ringraziamo di cuore per aver partecipato a questo speciale sul lavoro. Grazie a voi di cuore di averlo organizzato e di avermi permesso di dire la mia al riguardo su questi temi. E quindi ti mandiamo un abbraccio e grazie ancora di cuore. Un abbraccio anche a voi, grazie. Grazie infinito.